140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche la nostra pagina Facebook 140 caratteri. Questa settimana, l'ultima per questa stagione, una puntata speciale dedicata a un grande compleanno. Studi di Radio 24, Milano. 40 anni di successi. Tutto partì da una stalla e da un salvadanaio nell'epoca del beat. Ma sono ancora forti in tutto il mondo Vittorio Nocenzi, Francesco Di Giacomo, il banco del mutuo soccorso. L'epoca delle prime band beat, gruppi musicali. Forse non c'era da pochissimo tempo l'idea del gruppo, della band, perché c'era prima l'orchestrina da ballo. C'è un mondo lontanissimo, anni luce. Il web ancora non era apparso, non è apparsa la cometa, ma c'era già una stalla molto umana, molto laica, fuori dalla parte religiosa della nostra nazione. Era a Marino, ai Castelli Romani. Marino è famosa per la sagra dell'uva, la prima nel suo genere, durante la quale c'è un grande miracolo: le fontane che buttano vino invece dell'acqua. Ecco, questo luogo così particolare vede le prove della prima formazione del Banco del Mutuo Soccorso. La stalla nasce con questa formazione, con quella che poi sarà ufficialmente il banco. Una stalla dalla quale furono espulse le mucche, ritirate in un altro spazio, fu ovviamente bonificata, improfumata, sbiancata e agghindata, e nelle mangiatoie, invece che il fieno, ci furono le testate degli amplificatori, i pedali wah-wah delle chitarre, i jack di collegamento, un piccolo palco dove mettere le tastiere e la batteria, e lì nasce tutto il repertorio del Banco del Mutuo Soccorso. Poi ci sono un po' di festival, come usava allora, e le audizioni. Io ho sempre sentito parlare come una grande leggenda ammantata veramente di mistero e di magia, le grandi audizioni all'RCA. C'erano le vite di tanti artisti che passavano nel bar dell'RCA. Mi ricordo che ci incontrai un Renato Zero magrissimo, vestito di rosa shocking, una tunica rosa, che colse un mio amico di Marino, sempre molto concreto, che stava per addentare una rosetta romana con una salsiccia arrostita dentro, e Renato, sconosciuto, gli fece all'improvviso: "Che fai, Eni, te nutri?" E Eraldo Gargano, non ricordo. E lì passavano la vita gli artisti, e le loro aspettative, le loro meteore, i loro non futuri. Il bar della speranza. Mi ricordo che anche io ho fatto un'audizione all'RCA, e questa è una cosa molto divertente sotto un certo aspetto, che mi proposero di andare a Sanremo con un ciccione, anche lui biondo, che si chiamava Salvador, non mi ricordo il nome. E dovevamo fare un pezzo che si chiamava, e noi ci saremmo dovuti chiamare, te lo dico alla fine questo, dovevamo fare un pezzo che avrebbero cantato poi le Supremes, che si chiamava L'Idolo, e noi ci saremmo dovuti chiamare Le Piume. Lì mi sono alzato e ho salutato e sono uscito. Comunque, e poi invece l'audizione vera e propria è quella che abbiamo fatto nel 72 alla Ricordi. Arrivavamo da Roma con questo furgone e facevamo questo provino in un giorno d'inverno pesantissimo, perché nevicava, e a Milano, in questo cinema dei preti, che però la Ricordi 6 giorni su 7 usava come studio. Dal fondo della sala Gianni Saint-Just, che era il direttore artistico, che doveva dare l'assenso alla nostra accoglienza da parte della Ricordi, con un gesto interruppe la nostra esecuzione, e lì si scattò la precauzione: ok, pure questa è andata male. Invece, ok, basta, andiamo via Berchet al centro, al Duomo, andiamo a firmare il contratto. Senza un Cristo Esatto, e quindi Salvadanaio. Esattamente. Sì. E lì abbiamo registrato Salvadanaio, in questo cinema salesiano. La domenica riceveva i ragazzini a vedere il film a pomeriggio e durante tutto l'arresto della settimana questo cinema restava completamente con le poltrone di legno che scricchiolavano, deserto, abbandonato, e lì su questo aveva un suono splendido questo luogo, perché per terra il legno era, il pavimento era di legno, era parquet, e quindi si registravano molto bene archi, eccetera, c'era l'angolo per la batteria. E un pezzo di questo primo disco, Passaggio, lo eseguo proprio con questa spinetta che era lì, e si sentono i passi che camminano, arrivo lì, alzo la spinetta, poi ton ton ton, e comincia a suonare. Avere in quell'epoca anzitutto l'opportunità di registrare un disco era qualcosa di irraggiungibile. Oggi chiunque registra a casa. Oggi c'è una tecnologia fantastica che ti consente in 5 minuti di spingere un tasto e registrare qualunque cosa, anche se sei a Timbuktu. Alla fine degli anni 60, inizi 70, registrare era già un miracolo. Lo potevi fare soltanto negli studi professionali, che erano proprietà, appannaggio e gestione delle case discografiche. Era un mondo completamente diverso. Cioè, mi vengono in mente gli antenati, Vilma la clava, cioè, un'altra storia. E i testi, visto che era proprio un mondo diverso anche quello che si legge nei testi di quelle canzoni? Ma sai, i testi erano il frutto di una sollecitazione musicale, di quello che Vittorio aveva messo giù musicalmente, quindi si cominciavano a creare dei mondi, dei segni all'interno dei quali poi bisognava lavorare a mettere a posto in metrica, con il problema che la lingua italiana presenta. Ci raccontavamo proprio in macchina che c'è sempre così questa idea un po' del momento dell'ispirazione, e non si vuole deludere nessuno, per carità. Questo momento c'è, chiamiamolo così, ispirazione, gli si può dare il nome che si vuole, però poi all'interno di questo bisogna tecnicamente mettere a posto quello che tu magari hai, come dicevi poco fa, poeticamente pensato. Qualche volta lo andavi a violentare, ma non lo so, forse qualche volta anche a migliorare. Di sicuro era molto facile escludere campi di argomento: amor, cuor, sdolcinamenti, diabeti, cose che proprio a priori era eczema, cominciano a crescere le pomate contro l'orticaria, proprio non bastavano. Ma neanche ci piaceva l'affettazione dell'originalità ostentata a tutti i costi, sarebbe stato pure quello un atteggiamento assolutamente forzato, quello banale, quest'altro forzato. A volte partiva direttamente lui in prosa, altre volte concordavamo prima, no, Francesco, l'ambito. Beh, no, sto pezzo, perché la guerra, come si chiama, l'amore, sì, ma in maniera completamente diversa, e nascerà una canzone bellissima nel banco. Questo è Darwin. Il Giardino del Mago parte da un percorso molto privato, molto intimo. Io... Sì, c'erano poche righe del Gatto Vittorio. Esatto. Da una parte, sì. Mi ricordo, e poi io... E poi sei partito a buttare giù una prosa che non aveva nulla a che fare con quella che era la linea melodica. E da questa prosa, da questi brogli che uscivano fuori, poi dovevamo prendere tutto questo lavoro scritto di getto, veramente seguendo un po' un'idea di ispirazione. Poi però arriva il momento terribile di fargli fare i conti con la partitura musicale. E lì c'è una melodia, c'è un numero di note, quindi un numero di sillabe. E lì una lingua refrattaria a potersi piegare con agilità sulla necessaria ritmicità della linea musicale. Di un concept album forse ancora di più. In quegli anni c'erano i concept album, voi ne avete fatto uno nel 72, Darwin, è così? Chissà perché questa cosa, che era partita da un'esigenza tra virgolette, nel senso che già di per sé l'LP era un territorio musicale abbastanza grande da riempire o da percorrere, vedi tu, e quindi quello che ci andavi a mettere sopra probabilmente non poteva essere un percorso di canzoni più o meno slegacciate. Il fatto dell'album concept era quasi un atto naturale. Adesso poi, come lo vedete il fatto che gli album quasi non esistano più e i ragazzi si scarichino una canzone alla volta? Si è un po' perso il concetto di un'opera organica e studiata? Ma io penso che questa cosa probabilmente come modo, come necessità, qualcuno la rifarà. Penso che anzi i tempi siano maturi per fare questa cosa, anzi ho paura che fra poco arriverà un po' un'orda di queste cose. Probabilmente, se posso dare una mia ipotesi, non c'era la diffusione delle opere rock e dei musical come c'è negli ultimi 20 anni, e i musical e le opere rock in qualche modo hanno preso il posto dell'album concept, perché in fondo l'album concept era il presupposto di un'opera rock, cioè un racconto non realizzato sulla scena, ma un racconto unico che metteva insieme una serie di brani musicali, no? Tutto sommato è un'altra forma, è un po' come dire la forma della cantata sacra che anticipa il melodramma. Il melodramma diventa teatro cantato. Lì siamo con Carissimi, un esempio un po' troppo fuori il seminato. L'ho già detto. L'album concept anticipa l'opera rock, o è una risposta non scenica dell'opera rock. C'era stato soltanto Jesus Christ Superstar che ci aveva colpito tutti. Stava nell'immaginario collettivo generale. Se poi ci metti la voglia di fare anche gesto, interpretare lo spazio della performance musicale, nasceva il piacere di fare un racconto ampio, appunto l'album concept. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Torniamo alla nostra puntata speciale dedicata ai 40 anni del Banco del Mutuo Soccorso. Tra gli anni 70 e gli anni 80 è successo che il linguaggio è cambiato, e è cambiato, non so se è meglio o in peggio, ma forse è cambiato, era diverso, è diventato tutto più veloce, è diventato tutto più consumabile presto. Questo non si accordava molto con quelli che erano i nostri progetti, i nostri programmi, però in qualche modo ci siamo dovuti adeguare, ma non tanto alla velocità o alla banalità delle cose, ma quanto alla, forse a una composizione più breve, più corta, anche più fruibile. E quindi sono nate delle canzoni che però in qualche maniera non siamo bravi a fare delle canzoni, non siamo molto capaci, e quindi abbiamo fatto sempre delle canzoni che in qualche modo villicavano un pochino oltre quello che poteva essere la canzone in sé, strofa, inciso, che so io, da Paolo Pa a, tanto per dirne una, e mi ricordo Moby Dick, tanto per dirne un'altra, Candy Joe e quant'altri, Baciami il Freddo. Paolo Pac era che affrontava all'epoca il problema della omosessualità, ma non l'omosessualità, quella scontata, quella nei salotti ben accetta in cui sei gay, ma quella della periferia in cui non sei gay, sei frocio, che è un altro discorso. Quindi il problema veramente di un ragazzo che ha magari che vuole fare, che ne so, l'artista in qualche modo, o che comunque vuole manifestare solamente se stesso senza bisogno per forza di vestirlo di chissà che. E quindi anche facendo questo brano, che mi ricordo che all'epoca addirittura volevano prenderlo un po' come inno all'epoca, Quindi siamo sempre stati in qualche modo un po' poco disciplinati sull'andare a fare anche le canzoni, quindi si vede che probabilmente c'è una naturalezza a essere poco circoscrivibili, ecco. In tanti non vi perdonarono Sanremo, per voi cosa fu? Dunque, quel Sanremo fu un Sanremo molto particolare intanto, perché dei tradizionali cantanti di musica iperleggera, delle canzonette, ce n'erano pochissimi, quasi nessuno. Non faccio nomi per buon gusto, insomma. Ci debuttò Zucchero, per dirne una. Accettammo ancora una volta un'altra sfida, era quella di essere te stesso e di andare in un contesto che non ti apparteneva come DNA. Accettare le sfide fa bene, fa essere umili, ti fa confrontare, ti fa crescere. Era per diventare miliardari? No, perché non lo siamo diventati prima né dopo, ma facemmo una bella canzone, una canzone di musica italiana che aveva un argomento importante, l'amicizia, quella con la maiuscola, non quella come si usa troppo spesso oggi per l'utilitarismo, ti sono amico perché poi mi puoi fare un favore, no. Questo Joe era il grande Joe, raccontava un sentimento bello, pulito, importante nella vita di una persona. L'amico che c'hai, quello che ce la fa sempre, no? Quello che comunque vada, lui si butta a fiume e si asciutta, non si capisce come succede, ma è così. Come ti va? Non è passato neanche un secolo. Tra un sogno e il rombo del telefono. Ancora tu, sempre il solito, unico, come sempre tu. In un tango traffico, guarda che poco dopo Grande Joe, la CBS dell'epoca ci propose un progetto internazionale per l'Europa e facemmo l'ultimo disco per la CBS e via. Con il nuovo musicista del banco aveva preso il posto di mio fratello Gianni, nel frattempo era uscito dalla band, si chiama Gabriel Amato, un polistrumentista di assoluto talento, geniale, bassista, chitarrista, cantante, tastierista, batterista, fenomenale. E facemmo ci propose la CBS, insieme facemmo un progetto per l'Europa. Poi questo progetto europeo partorì un topolino e il disco, che nulla aveva a che fare con il banco per l'Italia, fu distribuito in Italia. Decidemmo di riconsegnare il contratto discografico e da allora, per 8 anni, non abbiamo firmato nessun altro contratto discografico. Pensammo che era ora di dedicarci soltanto al live. Voi avete suonato e state suonando in tutto il mondo. Anche l'ultimo tour ha fatto un sacco di successo e pubblico anche giovanissimo. Ma sai, come si dice, si fanno sempre degli errori di gioventù. Quindi, guarda, ci troviamo veramente con un pubblico inatteso, diciamolo chiaramente, pubblico inatteso che va da 16-18 anni a 25 anni e sono il 60% del nostro pubblico, più c'è sempre lo zoccolo duro del banco, per carità, senza falsa modestia ma senza sbattimento di tamburi. Noi quando stiamo sul palco e suoniamo sul palco la gente se ne accorge, ce ne accorgiamo pure noi. Sai perché? Staccano la corrente, c'è troppo rumore, c'è troppa energia, staccano la spina e ci fanno smettere. Io ho una piccola idea oltre a questa che condivido, ovviamente me la sono fatta. Noi pensiamo spesso che i giovani siano più rincoglioniti di quanto noi non lo sono affatto. C'è una vasta parte di giovani che hanno annusato il fallimento di questa omologazione grigia e senza colori, che hanno bisogno invece di pensare diverso, di poter cercare e curiosare cercando anche nel passato cose diverse dal luogo comune. E in questo il web è stato veramente una grande opportunità. I nostri giovani sono molto più attivi nell'annusare il loro futuro e guardare nel passato di tutti per cercare di sperare in un loro futuro migliore. E nel fare questo, in questo gioco, anche la musica può essere riscoperta. Oltre ai tour, due libri e un cofanetto, dico giusto? Un libro di Vittorio che è uscito qualche mese fa. Questa pubblicazione della Sony, che il famoso famigerato Salvadanaio ha ricostruito proprio a livello sonoro. In più c'è un altro CD che, dove ci sono tre pezzi inediti da delle composizioni che Vittorio aveva fatto allora per quest'opera che si chiamava Francesco, che era su San Francesco, e poi ci sono tre pezzi dal vivo, guarda caso, sono stati registrati proprio 4-5 giorni prima della data fatidica dei 40 anni. Poi uscirà invece un libro molto impegnativo, ma si spera che per Natale. Prima di Natale però c'è un altro appuntamento. La pubblicazione a settembre, ottobre, giù di lì, di un brano inedito, Banco Franco Battiato, titolo Imago Mundi, Greenpeace, sponsor e sostegno dell'intero progetto. Forse l'uomo di domani è così, con il sangue arcobaleno. Com'è l'uomo di domani? Guarda le Olimpiadi, ci stanno andando degli atleti italiani, c'è un ghanese, una cinese. L'uomo di domani è così. O ci si consegna bonariamente a questa cosa, o ci si rassegna alla storia. Non si sfugge di qua. Mi piace che queste cose... Fa piacere che hai citato queste perché cose. Perché spesso io mi rendo conto che scrivo delle cose che forse stanno... Sì, lo voglio dire, stanno nella mia testa, ma non sono molto accettate dalle persone. E quando le scrivo, ma non c'è peggior cosa che essere fuori tempo rispetto alla storia. E io sto sempre fuori tempo, sono squadrato di natura. Tempi dispari, il banco ha sempre tempi dispari. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana, l'ultima per questa stagione, ma continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale @140caratteriR24 e anche con la nostra pagina Facebook ufficiale 140 caratteri. L'appuntamento in radio è per la prossima stagione.